Il progetto Life Green for Blue è un progetto finanziato dall'Unione Europea attraverso il bando Life, che finanzia varie tipologie di progetti. Nello specifico, il nostro è un progetto natura e biodiversità, cioè punta direttamente alla tutela sul territorio della biodiversità e di quelle che sono le tecniche per poterla supportare al meglio. Quindi abbiamo creato questo progetto da 2 milioni e 4, grazie a questo partenariato, di cui il 55% è finanziato dall'Unione Europea, quindi parliamo di 1,3 milioni quasi. Per 6 anni lavoreremo, perché ormai sono già passati i primi 6 mesi, lavoreremo proprio facendo una serie di attività e di azioni per migliorare quella che è la funzione dei canali della pianura affinché questi possano diventare dei corridoi ecologici e quindi supportare lo spostamento tra le aree naturali all'interno della pianura, della fauna e anche della flora. Tiene conto di problemi di natura ambientale, quindi specie alloctone, specie autoctone e possibilità di creare danni all'ambiente piuttosto che inondazioni e altro. Quindi un progetto che cura monitoraggio ma anche possibili soluzioni. Assolutamente, oltre che prendere in considerazione quelli che sono i problemi alla sicurezza idraulica causati dalle specie aliene come la nutria e il gambero rosso della Louisiana, vengono prese in considerazione anche delle problematiche sempre di origine antropica un po' più sottili, come l'inquinamento delle acque, perché l'utilizzo di sostanze nutrienti rilasciate all'interno dei canali, come tutti i fertilizzanti dell'agricoltura o gli scarichi fognari, sono dei nutrienti che poi causano quelle che sono le famose mucillagini in Adriatico. Quindi cercare di fare un miglioramento della flora dei canali può portare a un miglioramento della qualità dell'acqua attraverso la fitodepurazione, quindi la rimozione di questi inquinanti, fosforo e azoto, che poi causano quelle fioriture algali che tutti conosciamo e che ben poco ci piacciono. Siamo qui con Lorenzo Frattini di Lega Ambiente Emilia Romagna, al quale chiediamo di parlarci di questo progetto e di darci la sua valutazione. Sì, per noi questo progetto è molto importante perché va a insistere su un'area fondamentale della pianura. La pianura è un'area fortemente antropizzata e quindi le aree dove è possibile trovare naturalità sono poche e queste poche sono quasi tutte costituite dalla rete dei canali. Per cui lavorare sulla rete dei canali di bonifica per renderli dei posti ecologicamente migliori dove ricreare la fauna originaria e cercare anche di riportare la flora originaria è un aspetto molto importante di questo progetto. Per cui noi siamo molto soddisfatti di lavorare con l'università e il consorzio con questi obiettivi. Il problema idrico in Emilia-Romagna è abbastanza sentito, visto che negli ultimi 2 anni ci sono state due alluvioni, una dell'Idice e una del Reno, e molto dovuto a temporali improvvisi, eccetera, ma anche causato probabilmente una concausa sono queste specie aliene, tipo le nutrie. Ritieni che questi sono interventi sufficienti su questi aspetti? Ma il fatto di lavorare anche sul contenimento delle nutrie sicuramente può avere, anzi, avrà degli effetti positivi anche dal punto di vista idraulico, perché le nutrie creano delle cavellature, delle cavità negli argini e quindi li indeboliscono. Questo va detto poi per un quadro completo che si somma come criticità anche quella dei cambiamenti climatici, perché alla fine alcune di queste esondazioni sono proprio legate alle frequenze sempre più alte di episodi estremi e a volte abbiamo la siccità come adesso, quest'anno è piovuto pochissimo dall'inizio anno, altre volte abbiamo troppa acqua in un solo colpo e quando ci troviamo in queste situazioni avere degli argini in qualche modo più fragili per diciamo, l'attività di queste specie evidentemente non aiuta.